Ave Maria, piena di grazia, questa vita a tutti ci strazia. Questo non è un giro tondo, qui davvero casca il mondo. Ave Maria, regina dei cieli, apri qui in terra i miei sentieri. Aiutami a conoscere i caratteri veri, aiutami a capire che cosa è giusto o sbagliato. Bloccami prima che compia un peccato, abbi pietà, pietà di noi. Visto che so che tu lo puoi, vigila tu sopra i miei. Ti prego, toglimi da tutti i guai, saluta mia nonna e mio zio. Fa che vedano i tuoi splendidi occhi quelli di Dio, e di loro che li porto nel cuore mio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Prego Maria, siamo appesi ad uno stendino, e come panni col vento possiamo volare via. Non possiamo restare appesi per l'eternità. Apri le tue braccia misericordiose all'umanità, solo così potrò rafforzare la mia fedeltà e sorridere a chi non crede più di tanto all'aldilà. Hai visto? Cara Maria, mi dimenticavo di una cosa importante, più importante della pericolosità di un latitante. Aiutaci a trovare la cura di tutti i tumori che hanno spezzato milioni di cuori. Sarebbe importante guarire pregando, ballando sulle note di Salve Regina e cantando. Ave Maria, in questo mondo c'è un terzo mondo, sta morendo perché non mangia. Chi ci vive come può si arrangia, si vede dai loro occhi e dall'espressione della faccia. L'acqua non è nemmeno buona e lottano per una goccia. Ave Maria, com'è possibile che la pedofilia si faccia strada pure in chiesa? Adesso non mi posso fidare nemmeno della mia parrocchia, da dove ho piegato le mie ginocchia, confessandomi ad uno che è già sporcato con una macchia il suo manto di fede, ma tanto se ne infischia. E ora chissà quale povero bimbo azzocchia, o quale povera ragazza rimorchia. Ti prego fai qualcosa, non riesco a pensare questo prete come osa. Ho contato su di loro, ma penso che ormai l'importante abbiano solo un saio, e ora io posso credere soltanto in un unico Dio. Amen.